Letture di Radio 24. L'ex vicepresidente degli Stati Uniti Al Gore fa marcia indietro sui biocarburanti che invece negli anni passati aveva fortemente sostenuto. Più danni che vantaggi, feci questo errore per favorire gli agricoltori del mio Tennessee. Ma la marcia indietro non è integrale. Per l'ex vicepresidente americano c'è ancora del buono nel bioetanolo. Il bioetanolo ricavato dal Gran Turco produce il 29% in meno di gas nocivi per l'effetto serra. Chi l'ha detto? Al Gore, ex vicepresidente americano nel 2006. E adesso ascoltate questa frase. L'uso dell'etanolo è stato un errore. Chi l'ha detto? Sempre Al Gore. 4 anni e 2 premi, Nobel e Oscar, dopo. Eccola dunque qual era la sconveniente verità, come recita il titolo del suo libro diventato film. Il bioetanolo non era poi così un buon affare per l'ambiente. È lo stesso Big Al ad ammettere una verità ancora più sconveniente. Feci questo errore perché prestai particolare attenzione agli agricoltori del mio Tennessee e a quelli dell'Iowa, perché allora correvo per la presidenza. L'autocritica di Al Gore è stata subito pizzicata dai suoi numerosissimi critici. La pizzicata è arrivata da un giornale come il destro Wall Street Journal, che al di là dei dubbi sul riscaldamento globale, ha sempre combattuto una conseguenza di certe politiche ambientaliste. Quella degli aiuti. Tra i tagli alle tasse per le compagnie petrolifere che scommettono sul biofuel e i sussidi agli agricoltori, il contribuente americano ha messo in tasca sua più di 7 miliardi di dollari solo nell'ultimo anno. Ma non basta. Già 2 anni fa Science aveva dimostrato che la riconversione dei campi alla produzione di bioetanolo avrebbe paradossalmente causato fino al raddoppio dei gas serra. Eppure l'EPA, l'ente ambientale americano, sta pensando di aumentare la percentuale presente nella benzina dal 10 al 15%. Non basta ancora. L'uso del bioetanolo è sotto accusa anche per l'impazzimento dei prezzi che ha comportato. Il 41% del mais statunitense, cioè il 15% dell'intera produzione mondiale, è ormai impiegato nei combustibili. E questo ha fatto aumentare i prezzi delle provviste alimentari, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. E la ciliegina sulla torta è uno studio dello stesso Dipartimento dell'Agricoltura. Il prezzo del grano turco in 5 anni è salito del 71%, mentre quello del petrolio soltanto del 55%. I detrattori del Nobel dovrebbero però prestare orecchio anche alla seconda parte dell'argomentazione, perché se è stata sbagliata la politica dei sussidi massicci per l'etanolo di prima generazione, Gore è convinto che l'etanolo di seconda e terza generazione, quello cioè prodotto utilizzando gli scarti agricoli che non incidono sui prezzi dell'alimentare, resta un'ottima alternativa. Almeno fino alla prossima autocritica. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Il mea culpa di Gore sui biocarburanti, pubblicato da La Repubblica del 30 novembre. Letture di Radio 24. Dalle colonne di Libero, il giornalista Filippo Facci difende lo scrittore Roberto Saviano dai non pochi attacchi ricevuti in seguito alla trasmissione televisiva Vieni via con me. Per Facci, l'autore di Gomorra è un libero pensatore e non merita di essere confuso con altri pensatori o bandiere della sinistra, tanto che, aggiunge l'editorialista, anche la sinistra dimostra di non amarlo troppo. È finito Vieni via con me e vorrei difendere Roberto Saviano ancora una volta, se non dispiace. Perché l'errore di noi tutti, la prendo alla larga, resta il cretinismo bipolare, la tentazione cioè di arruolare nell'esercito nemico chiunque abbia delle opinioni variegate e non sia una caricatura servile della nostra parte politica o culturale. In parecchi, quando Saviano commise l'errore di citare solo la Lega associata all''Ndrangheta, sentirono probabilmente un qualche sollievo. Finalmente era inciampato a dovere, finalmente aveva creato un clamoroso precedente così da poterlo incasellare definitivamente a sinistra, in compagnia dei vari professionisti antisistema e anti-Berlusconi. Saviano? Capitolo chiuso, catalogato. È uno di quelli lì, è smascherato, è un sinistro. Magari lo vedremo a qualche Vaffa Day con Beppe Grillo e compagnia sghignazzante, magari lo candiderà il PD, queste cose. E invece no. La cretinata sta proprio qui. A caderci è facile, anche perché restiamo una nazione di tifosi. Criticare Saviano per i suoi errori non deve impedire di accorgersi che resta di un'altra pasta, come dimostra l'antipatia malcelata che ormai lo circonda, proprio tra gli idoli della sinistra forcaiola, quella che non ammette sfumature e dirime ogni questione senza incertezze. L'ha notato giustamente anche il Riformista. Già uno come Beppe Grillo, durante uno spettacolo, ha detto che Saviano è sostanzialmente colluso perché non fa nomi e il suo spettacolo lo produce Endemol. E Santoro? Resta su chi vive, però la settimana scorsa si è divertito come un matto mentre il suo Vauro sparava una vignetta contro gli interminabili monologhi di Saviano. E Travaglio? Forse è il caso più emblematico. Non attacca frontalmente Saviano, non può permetterselo, ma non gli ha risparmiato stizzite pagelline settimanali e soprattutto il rimprovero di non affondare i denti sui temi che contano, a suo dire, cioè le inchieste del suo amico Antonio Ingroia, i casi dell'Utri, Berlusconi, le trattative che non esistono, mica Falcone, mica l'Andrangheta o Pier Giorgio Welby. È giunto a scrivere, Travaglio, che certi resoconti saprebbe farli qualunque cronista, come a non spiegarsi il perché Saviano faccia tuttavia ascolti stratosferici. Forse è vero, forse c'è di mezzo qualche gelosia tra prime donne dell'anti-berlusconismo, ma non può essere tutto qui. Gomorra non è soltanto un'inchiesta coi controfiocchi che ha rivelato al mondo delle cose che neanche tanti giornalisti sapevano. In opposizione a inchieste su trattative e mafie immaginifiche che non sono neppure mai esistite. E Saviano non è semplicemente il profeta colpevole di parlar male della Campania e di non essere ancora stato ammazzato. Il punto è che Saviano ha venduto milioni di copie e ha avuto milioni di spettatori proprio non raccogliendo i dettati di chi a sinistra, avendo gioco facile con una destra imbelle, ha cercato di fagocitarlo culturalmente. Saviano segue la sua strada e per il resto se ne fotte. Pubblica con Mondadori perché ha creduto in lui e perché è la migliore casa editrice italiana. Fa programmi su Rai 3 e con Fabio Fazio, ottenendo comunque, la si veda, un successo strepitoso, perché alla fine non si capisce con chi altri avrebbe potuto farli. E il centrodestra guardi e impari, visto che in alternativa non propone mai nulla di serio. Saviano sarà anche tendenzialmente di sinistra, ma non abbastanza perché la destra lo liquidi e la sinistra lo assimili e i cretini lo possano intruppare. E quelli come lui, in questo paese, o sono dei paraculi sterili, o sono degli indipendenti dalla vita durissima, perché parlano un linguaggio tutto sommato normale, non gettano croci addosso a qualcuno ogni 3 secondi, spesso raccontano verità scomode e ambivalenti, e sono tacciati, proprio per questo, anche per questo, di collaborazionismo col nemico. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Filippo Facci, C'è del buono in Roberto, infatti a Travaglio non piace, su Libero del 30 novembre 2010. La Calabria, più precisamente Cosenza, sembra essere in procinto di diventare un'isola felice dell'high-tech. Martedì 30 novembre è stata inaugurata a Cosenza, all'interno dell'area campus dell'università, la struttura che ospiterà 18 start-up dell'high-tech. Secondo gli operatori, la Calabria potrebbe stupire il mercato nei prossimi anni. Gianluca Dettori, uno dei più vivaci talent scout dell'high-tech italiano, con il suo fondo, D-Pixel, da un paio d'anni non si fa mancare almeno una puntata al mese in Calabria, anche se mi tocca alzarmi alle 5 di mattina e tornare a casa a notte fonda. Scherza. Ma evidentemente per un investitore c'è del buono a Rende, nel chilometro e mezzo di aule e laboratori che compongono il campus dell'Università della Calabria, a 2 passi da Cosenza. «È un'isola felice», dice, «perché qui si fa ricerca seriamente e non mi stupirei se nascesse qualcosa in grado di stupire il mercato. I primi a provarci saranno le 18 startup ospitate nell'incubatore Technest. L'edificio che ospita le startup è in fondo al campus e idealmente è il traguardo di un percorso che abbiamo iniziato nel 2005», spiega Riccardo Barberi, delegato del rettore alla ricerca dell'Università della Calabria. «Se l'incubatore è un primo risultato, a dare il polso del cuore tecnologico che batte qui in Calabria sono le 18 imprese che hanno superato la selezione per entrare in Technest, dalle turbine per produrre elettricità sfruttando le correnti marine al software rigorosamente open source, capace di integrare archivi digitali, fino al film elettrocromico adesivo in grado di controllare l'intensità della luce che attraversa una vetrata e regolare di conseguenza la temperatura degli ambienti. I prodotti sviluppati dalle PMI calabresi non hanno nulla da invidiare alle idee che si vedono girare per le startup competition nazionali e non solo. Tanto è vero che gli investitori non si sono fatti pregare. Operatori del Nord, pronti a scendere nel profondo sud, perché non è facile trovare un ambiente vivace, coeso e supportato dalle istituzioni come questo, osserva Dettori. Anche qui, come nel resto d'Italia, il problema è quello della crescita. Ci sono da alzare le ambizioni a livello di progetti. Ma le condizioni di partenza sono buone. Ciliegina sulla torta a confermare che l'interesse sul campus cosentino è elevato, l'apertura di una sede dell'associazione Bridge to Italy, costruita da ricercatori italiani emigrati negli States, per intensificare gli scambi tecnologici tra Italia e Stati Uniti. La sfida a questo punto è quella di non accontentarsi, sottolinea Riccardo Pietrabissa, che è stato confermato presidente di NetVal, l'associazione delle università e degli enti pubblici di ricerca italiani. Superata la fase pionieristica, in Italia gli incubatori hanno senso solo nella misura in cui sono in grado di porsi come acceleratori delle imprese che ospitano, spingendole a crescere in fretta e non limitandosi a offrire servizi di base a basso costo. L'intenzione è proprio questa, assicura Barberi. L'idea, anticipa, è quella di tenere alta l'asticella, come già è avvenuto nella fase iniziale, quando si è stabilito di non attirare le imprese con strumenti di finanza agevolata. Le nostre imprese incubate non beneficeranno di misure particolari, ma avranno il solo vantaggio competitivo di vivere in un ambiente vivace e fecondo. Anche in quest'ottica va letto il prossimo step, il varo di un fondo di investimento con il contributo della Fondazione Carical. Avete ascoltato l'articolo Un incubatore della Calabria di Marco Ferrando, pubblicato dal Sole 24 Ore di martedì 30 novembre.